H. Ascolta e indica la parola che senti. 1. Non gioco mai a carte. 2. Gina viaggia molto. 3. Cita versi di Dante. 4. Mi sembra un ragazzo pacato. 5. È un cesto intrecciato a mano.